stretti nelle tasche sfondate, ed anche il mio pastrano diventava ideale. Andavo sotto il cielo, Musa, ed ero il tuo fido. Quanti splendidi amori ho mai sognato allora. Guidato dalle stelle, portato da un vascello, ebro vedo un porto lontano. Al suo apparire, sensazioni molto strane che sembrano brillare come luci lontane. Ma d'estate vi ringrazio. La mia vincenza.